intanto è un judoka, per cui già questo non è una trovata pubblicitaria, lui proprio fa judo da anni. Io ho potuto misurarlo sul tatami, nel senso che nel 2009, quando la squadra ha cominciato a fare risultati, alla fine dell'anno il presidente ci ha convocato per un allenamento comune, e per cui l'abbiamo visto proprio in materassina con il judogi e ci siamo allenati insieme. Si vede che è proprio la sua passione il judo.